Della Cina oggi si parla per tutt'altri motivi. Gli imprenditori italiani gareggiano per chi ci investe prima e favoleggiano di lauti guadagni da porsi in relazione al minimo costo del lavoro, mentre i covi del capitalismo mondiale, che alla logica degli imprenditori medesimi non dovrebbero risultare del tutto estranei, ma si sa ma non si dice che il capitalismo è una bestia che mangia se stessa, mentre i covi del capitalismo mondiale, dicevo, diffondono allarmi sulla concorrenza sleale, continuando peraltro a sventolare la bandiera di un liberismo che, se davvero tale, non dovrebbe temere slealtà alcuna, essendo questa e solo questa, per l'appunto, la regola del gioco. Degli argomenti che hanno fatto parlare della Cina nella seconda metà del Novecento, oggi si parla meno o niente del tutto. Di comunismo cinese e di rivoluzione culturale nessuno parla più. Si parla meno di esplosione demografica e pochi ricordano, riflettendoci su, quel momento della vita sociale cinese in cui tutti vestivano il medesimo abito. In quell'uguaglianza consisteva una porzione cospicua della dignità di un popolo povero che, innanzitutto bandendo gli sprechi, cercava di sopravvivere. In quell'uguaglianza si doveva cercare l'esito di un pensiero collettivo, la manifestazione pubblica di fronte al mondo intero di un'opzione ideologica che, tramite scarpe, pantaloni e giubba, passava da individuo a individuo, contribuendone all'unione, alla coralità di stili di vita. A prima vista le soluzioni contraccettive escogitate nell'antichità facevano pena e un po' schifo. Far bere alla femmina prima del rapporto sessuale mercurio riscaldato nell'olio o introdurle nella vagina miele e sterco di coccodrillo come soluzioni contraccettive trovano oggi pochi estimatori, si spera nessuno. Tuttavia è presumibile che il mercurio o la modificazione dello stato di acidità ambientale fossero letali per i coraggiosi spermatozoi che tentavano l'avventura. Che al contempo si intossicasse anche la femmina era un problema che nel quadro ideologico dei protagonisti sembrava irrilevante. Il fatto che il noto plurinfetto e plurinfettante moderno Giacomo Casanova si preoccupasse di apporre in zona critica delle sue amanti poco desiderose di gravidanze un mezzo limone spremuto, oltre ad anticipare le virtù della vitamina C, non fa che confermare la solidità delle radici storiche della scienza chimica. I consigli dello stesso Sorano d'Efeso, ginecologo in Roma forse un paio di secoli dopo la nascita di Cristo, consigli che dicevano tossire, starnutire e saltellare dopo il coito, la femmina, mi raccomando, non il maschio, sembrerebbero anticipare consapevolezze che per consuetudine la storia della scienza situa in secoli successivi. Gabriele Falloppio, sia nel Cinquecento, quel medico modenese cui ufficialmente si deve la scoperta delle tube di Falloppio, intanto si chiamava Falloppia. La desinenza in A, fatale a molte donne di scienza, nel caso di un maschio è stata tradotto in O. La sua cultura empirica, tutta espressa in quelle sue Observaciones anatomiche pubblicate a Venezia nel 1561, se l'è fatta tutta sui cadaveri dei giustiziati messigli a disposizione delle autorità del momento e a dare ascolto alle male lingue anche sui corpi di giustiziandi che proprio cadaveri non lo erano ancora ma che grazie a lui lo sono diventati. Falloppia passa così alla storia per due motivi: per aver individuato i due canali, o salpingi, termine che nulla ha a che fare con la gastronomia natalizia e altro non significa che invece trombe, per aver individuato i due canali che congiungono l'ovaio all'utero, attraverso i quali l'uovo viene incanalato verso l'utero e gli spermatozoi incontro all'uovo. E per aver anche inventato una guaina di tela medicata da inserire sul pene del maschio. Parecchi anni prima che il conte di Condom, medico di quel re Carlo II d'Inghilterra, che in materia di rapporti sessuali, mi si passi la metafora, non andava per il sottile, ecco, prima che inventasse questo condom, la sua guaina di intestino di pecora teso e lubrificato. Si noti una cosa. In questi casi l'esigenza di contraccezione c'entra poco o nulla, perché i valori d'epoca impongono essenzialmente di salvare il maschio dalle infezioni veneree. Il primo preservativo di gomma risale al 1870 e dal 1905 è attiva sul mercato internazionale l'azienda di cui ho in mano il dépliant illustrativo. Non produce un preservativo, ma in presunta ottemperanza ai diversi gusti di una diversa clientela ne produce 8. Ottontologie, per dirla filosoficamente, che necessitano di una differenza che li contraddistingua come elementi di un medesimo sistema. Di 8 nomi, e nella misura in cui la funzione designatoria dei nomi latiti è di 8 apparati descrittivi. Un compito che avrebbe fatto tremare le vene dei polsi di un Aristotele e che non a caso dunque risulta mal svolto, fino a risultati imbarazzanti. Chi cercasse le differenze fra le forme in questo dépliant rimarrebbe deluso, trovandosi di fronte soltanto a 5 forme diverse distribuite negli 8 esemplari. Chi si rivolgesse ad un'implicita tipologia di utilizzatori rimarrebbe altrettanto deluso. Allora, anatomico, infatti, è categoria che dall'armadillo al tirannosauro si applica a qualsiasi forma di vita dotata di un organo idoneo. Lo stimolante per lei è invece chiaramente destinato, d'accordo, ma già l'extrapiacere punto G, teleologicamente ascritto al piacere dei partner, al plurale, suscita dubbi e incertezze. Il super sottile, vantando la propria super sensibilità, sembrerebbe chiaramente orientato al maschio, se tuttavia non fosse posto in luce ambigua dall'esistenza di un preservativo detto l'invisibile 005, descritto non come il preservativo delle spie, ma come veramente ultrasottile e per la massima sensibilità, come se i requisiti del primo allora costituissero un falso in atto privato. Ne rimangono tre, fra i quali ci imbatteremo nel problema ontologicamente più spinoso. Ammettiamo pure che l'endurance long love, descritto come ritardante per lui in grazia di lidocaina cloridato, ovvero di un anestetico che conterrebbe, individui un destinatario con sufficiente chiarezza. Ammettiamolo pure. E ammettiamo anche, più a malincuore, che il casual indirizzato a chi è giovane abbia un senso. In realtà non ce l'ha, perché la categoria di casual designa una relazione fra elementi diversi e autonomi, come una camicia, una giacca, un paio di pantaloni, articolazione che di principio non dovrebbe caratterizzare un preservativo, un'ontologia monolitica, almeno se non di più e quanto l'atomo di Democrito. Ammettiamo pure allora, entro certi limiti, tutto ciò. Ma mai e poi mai potremmo accettare l'ipostasi orridamente bicefala di un preservativo denominato pianificazione familiare. Un nome che nell'enunciare un programma lo contraddice e che viene riservato alla coppia. alla coppia. Una definizione che in un attimo ha il potere di vanificare tutte le definizioni precedenti e, in pratica, lo statuto dell'oggetto stesso di cui si sta parlando. Se questo è l'unico per la coppia, gli altri, allora, a quali gesti di disperata solitudine o frenetica moltitudine sono riservati? Gli abiti dei cinesi di un tempo, tutti uguali. Preservativi d'oggi, 8. Non sempre il numero delle alternative offerte dal mercato costituisce un'effettiva ricchezza di gradi di libertà per chi è chiamato a svolgervi il ruolo del consumatore. A volte nella dovizia dell'offerta è nascosta la privazione maggiore. La consapevolezza di chi partecipa attivamente di una relazione comunicativa e la pratica condivisa di un linguaggio che almeno non si contraddica. Che è il senso chiave?